il mio paradiso, eh? Paradiso perduto, qualcosa di inspiegabile, un effetto sconosciuto, sono fottuto. Già. Cerco solamente aiuto, uscito dall'alcol, nella droga son caduto. Sniffo tanta cocaina e fumo marijuana solo per comprare. Esco dalla mia tana, pochi grammi al giorno. Bastano quelli e mi ritrovo storno. Vado in discoteca tutte le sere, invece di ballare finisco per fumare, bere dagli spacciatori. Sono il primo della lista. Sì. È brutto da dire, stavo meglio alcolista. Deve finire, dura da troppo tempo questa fissazione, la vedo come passatempo. Non rappo solo per sfogarmi, anche per una soluzione. Cerco una via d'uscita da questa prigione. Uomo, tu sei fatto, sei andato completamente. Provo a salvarti ma non basta un salvagente. Affondato nel mare della droga, ormai salvarti è una parola. Uomo, reagisci, affronta il tuo problema. So che tu sembra una missione estrema. Emergi dal mare della droga, liberati e supera questa prova. Droga mia, sei una malattia. Mi fai sentire come mamma senza malattia. Quando non ci sei mi fai sentire male. Quando non c'ho soldi per poterti comprare. Già. Non mi potete giudicare se mi devo bucare. Nah. Che io trovi una cura, ormai ho smesso di sperare. Provo depressione, una strana sensazione. Ogni mio pensiero mi dà stimolazione. La prima volta all'ero mi sembrava farina. Al tempo ignoravo fosse la mia rovina. Crack, ecstasy, tutta ad un botto. Quando compare la pulla sparisce tutto nel fagotto. Bravo. Manca poca la mia uscita di scena. Forse ho trovato quello che mi frena di buttare via così la vita. Non vale meglio curarsi di rap e spruzzare il rap in vena. Uomo, tu sei fatto, sei andato completamente. Provo a salvarti ma non basta un salvagente. Affondato nel mare della droga, ormai salvarti è una parola. Uomo, reagisci, affronta il tuo problema. So che ti sembra una missione estrema. Emergi dal mare della droga, liberati e supera questa prova. Uomo, chiusi fat, esci dal tunnel. Non diventare pazzo da gridare in giro. Number. La natura già ti ha fatto un dono, sei un pirla. Se fucili il tuo cervello da svegliarti la mattina. In mezzo alla strada, ridotto uno schifo. Sei entrato in questo giro in cui sei senza un amico, senza divertimento, senza soldi, senza testa, senza un vero motivo. Vuoi sentirti un tronista? Servono allucinazioni, compri LSD. Lo trovi come se non esistesse legge qui. Vivi di coca, alcol, pasticche e siringhe. Sembra ti salvi la vita, invece all'orlo te la spinge. Non servono consigli, piuttosto ascolta Crackfish. Salva la tua esistenza prima che il filo si spezzi. Ti aiuterà a nuotare, a mantenere la tua vita. Nel mare della droga arriverai la riva. Uomo, tu sei fatto, sei andato completamente. Provo a salvarti ma non basta un salvagente. Affondato nel mare della droga, ormai salvarti è una parola. Uomo, reagisci, affronta il tuo problema. So che tu sembra una missione estrema. Riemergi dal mare della droga, liberati e supera questa prova.